Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, trasmissione che torna oggi su una delle figure più popolari nel mondo della narrazione infantile, ovvero sia Pinocchio. Il Comitato Ricerche Pioniere d'Italia, il CRAP, assieme all'Associazione Culturale Stella Alpina di Novara, ha voluto riportare alla luce una versione del famoso burattino di Collodi apparsa sul Pioniere nel 1955, creando da una parte una mostra delle singole tavole comparse appuntate sul giornalino di Gianni Rodari di Narinaldi e dall'altra producendo un video dove, insieme all'illustrazione, viene presentato anche una lettura delle didascalie in rima che lo stesso Gianni Rodari realizzò corredando le immagini disegnate dal noto illustratore Raul Verdini. Cosa abbia significato questa riscoperta collodiana in salsa rodariana? Morena Moretti lo ha chiesto a Stefania Grassia, l'attrice che ha prestato la voce a quest'audio video. Stefania è la voce narrante della favola di Pinocchio, Le avventure di Pinocchio, che è scritto da Gianni Rodari. Stefania, come hai ritrovato questa favola? Sinceramente non mi ricordavo più quasi niente delle vicende di Pinocchio, quindi diciamo che sono quasi certa che Rodari ha dato una sua interpretazione alla favola, ma anche io, perché a distanza di probabilmente mezzo secolo per me era molto diversa, è stata una bellissima riscoperta. Quindi anche come esperienza, quella di riuscire ad anche interpretarla, perché tu comunque hai, guardando le figure, queste tavole anche molto belle, e leggendo hai dato una tua interpretazione anche personale, una nuova interpretazione di questa favola. Certamente, e soprattutto è stato molto bello lasciarsi cullare da queste rime, quindi vedere in una filastrocca una storia, una esperienza quasi nuova ormai, bellissima. Tu però hai già un'esperienza di teatro. Sì, piccolissima, sono un po' di anni che faccio teatro e la dimensione gioco o favola c'è sempre nelle cose di teatro, anche per noi apprendisti. E quindi forse questo, da questo mi sono fatta anche portare, sì, molto bello. Comunque erano ben 33 tavole immediate, no? La favola si svolge in 33 pagine, ogni pagina 6 tavole con didascalie. Un lavoro comunque abbastanza complesso, anche da leggere. Tu come ti sei trovata? Beh, diciamo che non potevi far passare troppo tempo tra una puntata e l'altra, ma non ti potevi certo dimenticare il precedente. Ogni piccolo pezzo era di un minuto e mezzo, quindi l'attenzione è catturata dall'inizio alla fine senza ombra di dubbio, ed è stato bello, è stato molto bello. ¡Suscríbete!

e fili si diverte, ma se scopre che i fili non ce l'ha, se si accorge che chi balla non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo il gendarmi e ti dichiara. Dunque 33 tavole per 45 minuti circa di video. E allora ascoltiamo un piccolo trailer del racconto di Pinocchio secondo i testi di Rodari, sempre letti da Stefania Garcia. Il grillo parlante rimprovera Pinocchio per le sue monellerie. Qui comincia, aprite l'occhio, l'avventura di Pinocchio, che tornando alla casetta trova il grillo che l'aspetta. Dice il grillo con calore: «Ah, ragazzo senza cuore, molto male finirai se bugiardo resterai!» «Grillaccio!» fa il monello, «parla un po' col mio martello!» Ed il saggio consigliere d'un sol colpo fa tacere. Corre quindi al focolare l'appetito per calmare, ma il paiolo, ahimè, è dipinto, e anche il fuoco è un fuoco finto. Un ovetto, che delizia, sta però fra l'immondizia. In padella o di frittata la merenda è assicurata. Rompe l'uovo il burattino, ma dal guscio ecco un pulcino. Guizza via strizzando l'occhio. «Mille grazie, sor Pinocchio!» Affamato e disperato va a bussar dal vicinato, ma il vicino dal balcone gli regala un acquazzone. Su un caldano, come vedi, asciugarsi vuole i piedi, ed i piedi si asciugarono, ma fin troppo, e si bruciarono. Intanto però Geppetto ritorna dalla prigione. Di Pinocchio testa dura qui continua l'avventura. Al piangente figlioletto rifà i piedi il buon Geppetto. Giura adesso il burattino abbracciando il suo bambino: «Per potervi compensare, tosto a scuola voglio andare». Cuce il vecchio un bel vestito, è di carta ma fiorito. Gli fa poi senza fatica un berretto di mollica. Per pagare la BC, la marsina, ahimè, sparì. Trema a freddo il legnaiolo, ma è felice il suo figliolo. Il giorno dopo, mentre a scuola a precipizio va l'allievo ancor novizio, d'improvviso echeggia e tuona una musica birbona. A godersi i burattini corron frotte di bambine. Già Pinocchio pensa scaltro: andrò a scuola domani l'altro. Ma l'ingresso costa caro, come far senza denaro? Il monello lì per lì vende il povero ABC. Mentre a casa, freddo e fame, il suo babbo fa legname, va Pinocchio a divertirsi. Prima o poi dovrà pentirsi. È nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Vai, scappa! Può apparire anche cosa curiosa, ma Pinocchio, ovvero sia il burattino più famoso del Novecento, per lo più non è stato un personaggio tipico dei burattinai, ma è sempre rimasto all'interno della narrazione letteraria e cinematografica. Parliamo allora, infine, del teatro di figura, andando a visitare il Museo dei Burattini di Bergamo. Museo dei Burattini di Bergamo, e siamo con il signor Pinuccio Rigamonti. Pinuccio Rigamonti, che è un po' l'accoglitore del pubblico. Esatto, per quindi conto di mio cugino. Io sono l'ultimo cugino rimasto di questo che era un burattinaio. Sì, che era un burattinaio, non aveva tanta voglia di fare il burattinaio perché di estrazione era fornaio. La nostra famiglia erano tutti fornai. L'unico che comunque, dopo i ragazzi hanno studiato, io ho studiato, mio padre ha fatto le tecniche, però Benedetto a questo punto ha pensato di far qualcosa di suo. Era solo, quindi da giovane, a parte il discorso della guerra, è stato alla Caproni, ha dovuto dare una mano ai tedeschi, l'hanno fatto lavorare come burattinaio per allietare le truppe tedesche che erano qui da noi in zona. Quindi lui aveva già un'esperienza come burattinaio? No, non l'ha mai fatto, però aveva l'istrazione, capito? Aveva l'inclinazione per fare questo. E quindi niente, ha cominciato con questo signor Nespoli, buona persona, però di poco conto, via. Era un grande bevitore, e quindi poi niente, prima cosa che gli ha detto: mi offri un bicchiere di vino. E questo è stato. E quindi niente, gli ha proposto che gli vendeva 29 burattini fatti da un certo Mescol. Mescol, le dico per esteso, perché era un personaggio famoso, burattinaio vero. Quindi ha accettato. Dopo due giorni ha raccimolato i soldini un po' dalla mamma, dal papà, dai fratelli, è riuscito a comprare questi 29 burattini ed ha iniziato l'attività. Andava nelle corti, andava nei cortili grandi, sa, una volta c'erano queste aie grandissime dove si riunivano tutte le famiglie. Sì, andava con la baracca dei burattini, come si dice? Con la baracca dei burattini, fatta da lui, comunque. perché lui è un artista tutto tondo. Oltre che essere burattinaio, era scultore, pittore, artista tutto tondo, perché anche al teatro prova ha fatto parecchie parti. Quindi lui comunque iniziò anche a costruirsi burattini. Sì, brava, con lo zirmolo, si chiama zirmolo, il legno, che è ciliegio, malleabile, senza venature. Quindi niente, lui ha cominciato a muoversi, no? Nei paesi vicini, Bonate, Bonate Sotto. Noi abbiamo tutta una parte dell'isola cosiddetta, perché era un'isola anticamente, e quindi ha cominciato a viaggiare da solo. Poi ha conosciuto la moglie, che adesso, che comunque non ci sono più loro, perché Benedetto è nato, era nato nel 15 e morto nel 90, e la moglie è nata nel 1917 ed è morta nel 2015, a 98 anni. Questa moglie ha avuto un ruolo importante, sì, nella vita. Sì, cara, la parte preponderante femminile, con le voci, perché erano duttili, erano facili a cambiare, lui aveva una duttilità nella voce, sì. E quindi niente, si sono messi assieme loro, poi si sono fidanzati. Non volevano i genitori, perché volevano che facesse il fornaio, ma comunque l'ha vinta lui. E lui ha detto: allora a questo punto io me ne vado. È stato ospite della famiglia della moglie, Piazzaniga, di Bonate Sopra. E quindi li ha ospitati, ha cominciato ad avere figlioli, ce ne sono ancora. Abbiamo il presidente, l'architetto sì. Sergio Ravazio, abbiamo il direttore artistico, il nipote dell'architetto Ravazio, dottor Loglio Luca, abbiamo la figlia di Benedetto l'ultima, di Sergio, Paola Ravazio. E chiedo, che cosa si vede quindi in questo Museo del Burattino? L'ultimo è nato, che dal 17 luglio abbiamo il teatro di animazione, con soggetti sulla carta, sul cartoncino, e danno un sistema di leveraggio centrale, come usavano una volta, sì. Anche papà me lo faceva, sì. E si può fare effettivamente anche adesso, ai giorni nostri. Poi abbiamo creato il centro studi per universitari, ragazzi che daranno la tesi in storia dell'arte e di figura, e quindi abbiamo uno storico che è in gambissima, dottor Pezzica. E la collezione, Lorenzo. Comunque nella collezione avete, allora, i burattini? In parte è nostra, sì. In parte ci è stata data in comodato d'uso. Certo. L'ultima creazione, che proprio ieri, per conto mio, per un amico, ci ha dato una collezione nuova del 1850-1950, un secolo. Questa persona era una persona che lavorava in provincia, proprio qui in questo palazzo, però aveva la capacità di esprimersi. Un figliolo ha preso le veci di Benedetto, però marionettista, non burattinaio, sì. Perché Buratto è un conto e il marionettista ha i fili. Lei sa cos'è il Buratto, no? No, uno straccio? Brava, è un canovaccio a trame larghe, o magatello, ma non si intende la carne, perché il magatello lei mi insegna che è anche carne, sì. Quindi niente, quindi siamo arrivati, è partito dopo la morte di Benedetto nel 1990, quindi noi dopo 3 anni abbiamo creato la fondazione per conto della figlia, che purtroppo non c'è più. Quindi qui, se uno volesse fare una donazione, perché ha dei burattini importanti, una collezione, potrebbe darla al vostro museo. Sì, brava. Perfetto. Sì, e l'altra domanda che le faccio, dica, per chiudere, voi avete qualcosa, qualche burattino che ha a che fare con Pinocchio qui? No. Pinocchio è assente dal nostro. Allora, i miei cugini sanno tutto di marionette, burattini, un po' meno le dico io. Però di Pinocchio niente, sì, qualche pubblicazione. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi, è una ditta specializzata.